verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Per me un bosco è una specie di città con gli alberi. Gli alberi vivono con gli altri alberi. Vivono sulla terra. Sono le voci dei bambini di Reggio Emilia, i famosi fortunatissimi bambini al centro del progetto pedagogico Reggio Emilia Approach, che ha più di 50 anni ormai. Gli alberi ci fanno sentire felici. 32 fra nidi e scuole dell'infanzia rigorosamente comunali, studiati in tutto il mondo. E allora oggi proseguiamo il nostro viaggio nelle migliori realtà pedagogiche del nostro paese, anche per capire come si stanno organizzando per riportare i bambini prima possibile a scuola, pur con tutte le misure di sicurezza che l'emergenza coronavirus impone. Le code possono avere un punto che se lo tocchi dopo fa una crepa enorme. Perché per i nostri piccoli, per intenderci, stiamo parlando dei bambini da 0 ai 6 anni, non poter stare con gli altri, giocare, condividere momenti di socialità lascerà davvero il segno. Eppure sui loro genitori viene da aggiungere, che non sanno davvero più cosa inventarsi per tenerli attivi, per tenerli lontani dai tablet tutto il giorno. Di arancia, di melograno. Ne parliamo oggi con Claudia Giudici, che è presidente di Reggio Children. Allora, Reggio Children promuove, diffonde in Italia e nel mondo l'esperienza pedagogica che è sviluppata quotidianamente da oltre 50 anni nei nidi e nelle scuole comunali dell'infanzia del comune di Reggio Emilia. In cosa consiste questo Reggio Emilia Approach? Sì, perché vogliamo sapere cosa hanno di speciale queste scuole Reggio Children. Centrale è l'idea, credo, di bambino considerato innanzitutto cittadino, quindi portatore sin dalla nascita di diritti, e un bambino riconosciuto come competente, con potenzialità, che quindi nel contesto educativo devono essere valorizzate e incrementate. Quindi un bambino competente, un bambino che quindi apprende sin da piccolissimo attraverso processi di esplorazione, di sperimentazione, e apprende attraverso plurimi linguaggi, quindi non solo il linguaggio verbale, ma quelli che il professor Malaguzzi, che è il fondatore dell'esperienza educativa di Reggio, definì i 100 linguaggi dei bambini, anche uno dei modi con il quale la filosofia educativa di Reggio è riconosciuta nel mondo, quindi molteplici modi di accedere e di accedere alla conoscenza e di costruire i propri apprendimenti, quindi linguaggio grafico, plastico, pittorico, poetico, musicale, che sono tra loro intrecciati. Quindi, insieme alle competenze pedagogiche delle insegnanti, vi è anche chi ha competenze di tipo artistico. Un altro aspetto importante è l'ambiente, lo spazio educativo. Ecco, ci faccia capire, quando si entra in una scuola Reggio Children, cosa vediamo, cosa troviamo, come sono distribuiti i bambini, che cosa fanno? Allora, cosa può vedere? Allora, c'è uno spazio che è innanzitutto articolato in più spazi di solito, quindi la presenza dei mini atelier e di altri spazi. Ci sono arredi che configurano la possibilità di lavorare a piccolo gruppo con sedute e tavoli che si configurano in modo anche diverso, restituendo un paesaggio anche degli arredi. Quindi tavoli che si compongono, si compongono e si ricompongono, esattamente. C'è un accesso da parte dei bambini a una pluralità e varietà e variazioni di materiali. Tipo? Ci possono essere da scarti anche industriali di plastiche, carte, legni, ma anche tutti questi aspetti, ma anche materiali naturali. E poi c'è tutta un'attenzione però anche a tutti gli strumenti, quindi da pennarelli e pastelli, molto accessibili ai bambini e soprattutto ricercati, ponendo grande attenzione a dare ai bambini la possibilità di scegliere lo strumento attraverso il quale rappresentare la propria conoscenza. quindi pastelli o pennarelli che hanno variazioni cromatiche anche molto raffinate, nel senso che offrono tante possibilità ai bambini, non solo i colori primari, ma colori differenti, molte sfumature, possibilità di lasciare accenni diversi, ma anche di costruire in altezza, ma anche la creta, ma anche tutta la dimensione che passa attraverso un approccio esplorativo dei codici, che siano alfabetici, che siano numerico, senza nessun approccio di prescuola, ma un approccio dove i bambini sono attivi costruttori dei loro apprendimenti in relazione con gli altri. Dove però è molto importante, questo lo sottolineo, il costruirsi come gruppo e come comunità. Quindi la dimensione delle regole, dello stare insieme, e quindi una libertà che non è che il bambino fa quello che vuole. Quindi questi bambini disegnano, manipolano, osservano, costruiscono, dipingono, cucinano anche, no? Del corpo, di tutto, sì, esatto. Cucinano proprio. Anche? E entrano anche in cucina con esperienze, esatto, di atelier in cucina. È proprio uno dei 100 linguaggi, diciamo, il cibo. Però lei ha parlato, insomma, ha posto l'accento anche su una questione che si sta rivelando chiave in questo periodo. Lei ha parlato di 26 bambini con 2 insegnanti. Sappiamo, sì, che in questo momento è proprio qua il punto dolente, sì, nel senso, sì, di ristrutturarsi e riorganizzarsi per piccoli gruppi. Evidentemente ci sarà bisogno di un maggior numero di educatori. Su che cosa state riflettendo in questo momento al Reggio Children? Come vi state ripensando per riportare i bambini 0-6 a scuola con le nuove regole dettate dal coronavirus? Questo, come dice lei, è un tema di grandissima attenzione e riflessione che non avrà facilissima soluzione, quindi sarà importante fare anche molte prove. Dico questo perché, come è noto, i nidi e le scuole dell'infanzia, come tutte le scuole, sono chiuse, riprenderanno con l'avvio dell'anno scolastico a settembre, e in questi mesi, nelle prossime settimane, si potranno fare esperienze, come anche per le età più grandi, di centri estivi. Vi siete fatti già qualche idea? Noi siamo strutturati da sempre nel lavorare a piccolo gruppo. Questo è un elemento che troverà un rafforzamento nell'interpretazione a cui lei faceva cenno. Lo dico perché in realtà il lavorare a piccolo gruppo non è una condizione e una strategia così diffusa e strutturale come invece lo è nella nostra esperienza. L'altro aspetto è quindi come articolare ulteriormente negli spazi, mantenendo quelli che saranno le indicazioni di distanze di sicurezza, i gruppi dei bambini. Perché se lei, appunto, riprendo la sua domanda iniziale, fosse entrata fino a quando siamo stati aperti in una scuola, in una sezione di Reggio, di scuola dell'infanzia, e sul nido bisogna fare alcuni ragionamenti diversi, avrebbe visto tanti bambini lavorare a piccolo gruppo, quindi, e anche con gruppi che possono corrispondere ai parametri che ci verranno dati. Il tema è però la vicinanza di questi gruppi che adesso si pone, quindi dovremo abitare in modo più allargato tutti i luoghi della scuola, facendo secondo me leva su una capacità anche di auto-organizzazione dei bambini, rendere i bambini, scuola dell'infanzia, sul nido occorre fare altri ragionamenti, anche rendere i bambini più parte e partecipi della progettazione dei contesti quotidiani di apprendimento, di gioco, eccetera. Quindi più responsabili anche dei loro comportamenti. Dei loro comportamenti, sì. Ma anche nell'organizzazione. Ma anche sull'organizzazione. Perché questo comporterà il fatto che quindi anche gruppi, come possono essere quelli della scuola dell'infanzia, possono in realtà muoversi e vivere in condizioni di modificate condizioni, senza però interrompere modalità e strategie già costruite. Insomma, per farla semplice, lei sta dicendo che piccoli gruppi di bambini possono anche in qualche modo essere auto-organizzati. Organizzati e non servirà un controllo, soprattutto per i più grandicelli, di un controllo. Con i piccoli bisogna fare altri di un insegnante, di un educatore che sia lì presente per tutti i gruppi, magari da 4-5, qualcuno può starselo. Secondo me si possono ci fare, si butta un occhio. Perché l'insegnante dovrà avere, e come dire, la visione di questi gruppi, e quindi sì, sarà. Però è diverso fare un'operazione di regia che consegna all'inizio della mattina, ridà significato, tesse fili di significato tra i gruppi, gruppi, quindi un insegnante molto presente, che però ha, come dire, riconosce ai bambini delle capacità di auto-organizzazione e di capacità di gestire anche dei pezzi di attività. Posso anche aggiungere, questo forse può liberare degli spazi di riconoscimento ai bambini rispetto anche ai loro processi mentre realizzano delle attività, perché talvolta ci può essere il rischio anche di un intervento eccessivo dell'adulto. Traduco per chi non conosce bene questi termini magari più pedagogici eccetera: lasciamo ai bambini anche un po' più vivere l'esperienza da soli. Una volta che gli abbiamo spiegato che questo è il quadro da cui possono trarre spunto, possono fare questo bellissimo disegno, hanno lì tutto il materiale per da utilizzare, da scegliere eccetera, lasciamoli fare da soli, non occorre un intervento ogni 2 secondi per verbalizzare quello che stanno facendo. Esatto, mi sembra un'ottima sintesi. Secondo me apre anche degli spazi per ripensare la didattica, ecco, se appunto credo che questo chiederà anche un processo formativo per le insegnanti in servizio mentre lavorano, importante, di confronto con più esperienze. Questi mesi che ci, come dire, che precedono l'apertura di settembre, potrebbe essere un'occasione nel quale fare anche attivare dei processi di formazione che possano andare anche in questa direzione. Se potessi parlare con la task force che sta ridisegnando la scuola italiana, sì, in un minuto volesse dare qualche consiglio, quale consiglio darebbe? Noi dobbiamo sempre ricordarci sulla centralità dei bambini, il loro diritto all'educazione in luoghi di collettività, quindi nidi e scuole. Quindi l'urgenza il diritto alla socialità dei bambini. Quindi l'urgenza comunque di riaprire in qualche modo. Sì. E chiedo che questo, perché credo importante, il diritto all'educazione, che porta con sé il diritto alla socialità dei bambini, stare con l'altro, fare con l'altro, eccetera, è fondamentale coniugarlo col diritto dei genitori, che sono anche dei lavoratori, quindi garantire la conciliazione dei diritti di tutti per il benessere di tutti. Ma lei ci crede? I bambini ne hanno bisogno. Penso che si possano fare delle prove interessanti e che si possa anche riaprire in sicurezza, pensando sempre al benessere dei bambini, ma anche a quello dei genitori. Ma lei ci crede che sia possibile insegnare a bambini una nuova socializzazione, quindi senza toccarsi, stando a distanza, insomma con tutta una serie di norme di sicurezza che non esistevano prima del Covid? Insomma, lei ci crede nella possibilità di spiegare ai bambini di non toccarsi? È molto difficile, perché come giustamente lei sta dicendo nella domanda che mi pone, in questa fascia d'età l'elemento della corporeità, di tutta una dimensione anche fisica, è estremamente importante nel processo di conoscenza e di relazione. Quindi sicuramente bisognerà trovare delle misure con le quali non possa essere completamente eliminato questo aspetto. Pensi lei, non solo nella scuola dell'infanzia, in un bambino di nido, cioè bambini che hanno bisogno della relazione costante fisica con le insegnanti, andranno trovate secondo me degli equilibri importanti che, salvaguardando indicazioni sanitarie di sicurezza, ma interpretano anche degli altrettanti bisogni di vita dei bambini per la loro crescita. Cioè bisognerà rassegnarsi nel caso del nido proposta al fatto che docenti, educatori e bambini si dovranno toccare, si dovranno toccare. il come, che misura si potranno forse anche scoprire cose interessanti, penso che non siano totalmente eliminabili, ma ribadisco, forse ci dobbiamo anche chiedere, dopo il periodo di lockdown, quindi di chiusura, anche di restringimento della vita quotidiana, di relazioni e di incontri dei bambini, noi comunque rimaniamo degli esseri sociali e quindi un poter riconquistare, pur con modalità diverse, una socialità allargata è, credo, un bisogno altrettanto vitale. E su questo è fondamentale la relazione con i genitori e il patto da costruire con i genitori. Perché se i genitori cominceranno a fare storie perché il bambino ha toccato l'altro, l'insegnante non è stato attento, eccetera, non ne usciamo più. Quindi bisogna condividere un patto con i genitori, perché si esce da questa situazione per dare opportunità ai bambini solo se tutti insieme condividiamo l'obiettivo e anche i processi e le strategie che si attivano. Lei ci crede che a settembre tutti i bambini bambini saranno 0-6 anni saranno di nuovo in classe? Non darei una risposta con un sì convinto. Io farò di tutto perché sia così, ma il sì convinto non riesco a dirlo. Questa risposta davvero non rassicura molto, perché se non riesce Reggio Emilia con la sua esperienza a riportare i bambini a scuola, la cosa dovrebbe davvero un po' preoccuparci. Comunque, le altre puntate dei podcast Diverso il futuro e oltre, dedicate alla scuola dei più piccoli, le trovate su radio24.it nella sezione podcast originali. Un saluto da Maria Piera Ceci.